Baby, please don't go. Baby, please don't go. Baby, please don't go back to your knees. You know I love you so. Scritta e interpretata nel 1935 dal bluesman del Delta, Big Joe Williams, è a sua volta un adattamento di un vecchio tema folk dell'Ottocento, Long John, con una melodia basata su Alabama Bound. Il brano di Williams, con Sonny Boy Williamson all'armonica, è ovviamente Baby Please Don't Go e diventerà uno dei pezzi più suonati della storia, con più di 50 versioni, fra le quali alcune mitiche come quelle dei Yam Boy Dukes, Them o AC/DC. Baby, please don't go. Baby, please don't go. Nel maggio del 1953, Muddy Waters, con l'inestimabile aiuto di Little Walter e Jimmy Rogers, gli cambia il nome e la fa diventare Turn Your Lamp Down Low. And you are me, you know I love you so. Before I be your dog, before I be your dog, before I be your dog, I get you way down here and I make you walk. Turn your lamp down low. Turn your lamp down low. The Crows erano stati scoperti allo show del mercoledì sera all'Apollo Theater di New York. Erano dei ragazzini che cantavano agli angoli delle strade e saranno il primo gruppo One Hit Wonder del doo-wop. Nel marzo del 1953 pubblicano il loro unico hit, un pezzo storico perché entrerà prima nella classifica pop al 14° posto e poi in quella rhythm and blues al 2° posto, compiendo un crossover impensabile fino ad allora. Il ritmo veloce, l'atmosfera amatoriale e l'assolo di chitarra alla Charlie Christian faranno di questo temazzo il primo brano doo-wop a superare il milione di copie. Loro sono i Crows e questa l'irresistibile G. Do, do, do, do, do, do, do, do, do, Love that girl. Hold me, baby, squeeze me, never let me go. I'm not taking chances because I love her so. Oh, oh, oh, gee. Yes, I love her. Yes, I need her. Oh, I love that girl. Love that girl. Aveva capito esattamente cosa doveva fare. L'esperienza con Rocket 88 e Rock Disjoint avevano confermato le tendenze e i gusti dei giovani. Nell'aprile del 53 registra un pezzo finalmente scritto da lui. Lo butta giù a tavola mentre la moglie gli cucina il pranzo. A ispirarlo sono le grida dei ragazzi ai balli scolastici nei quali si esibiva, che nel loro slang non smettono di ripetere frasi come «Crazy man crazy» oppure «Go, go, go!». Sarà la prima canzone di rock and roll a essere trasmessa in televisione in un episodio di Omnibus della CBS e la prima canzone a entrare nella classifica pop al 12° posto. Lui è Bill Haley e questa Crazy Man Crazy. Crazy man crazy. Crazy man crazy. Crazy man crazy. Crazy man, crazy. Crazy man, crazy. Crazy man, crazy. Oh man, that music's gone, gone. When I go out and I want a treat, find me a band with a solid beat. Take my chick and we dance about. When they start rocking, boy, we start shouting, shouting. Crazy man, crazy. Crazy man, crazy. Crazy man, crazy. Man, that music's gone, gone. Go, go, go, everybody. Go, go, go, everybody. Go, go, go, everybody. Go, go, go, go, go, go, go. Crazy man, crazy. Crazy man, crazy. Man, that music's gone, gone. Said crazy man, crazy. Crazy man, crazy. Crazy man, crazy. Man, that music's gone, gone. They play it soft, they play it strong. They play it wild and they play it long. They just keep playing till they break a day. To keep them rocking on, you gotta say it's crazy man, crazy. Crazy man, crazy. Crazy man, crazy. amava strafogarci dei piatti tipici della cucina criolla: il gambo, la jambalaya, il po' boy e le ostriche fritte. Il suo piano è figlio degli ascolti dei maestri del boogie come Albert Emmons e Mead Lux Lewis e degli idoli locali Professor Longhair e Champion Jack Dupree. Nel giugno del 53 il cicciotto di New Orleans torna ai piani alti delle classifiche con la spensierata Please Don't Leave Me. Lui è Fats Domino. Nato nella più completa povertà, si ritrova solo con la madre e il fratello minore. Il padre è scappato con un'altra. Quando ha 4 anni, si vede morire davanti agli occhi il fratello piccolo, affogato nella tinozza della madre. Lo shock è notevole. Non riesce a cancellare una delle ultime immagini che vedrà con chiarezza, quello del corpo inerme del fratellino, mentre la mamma cerca di riportarlo al mondo con la respirazione bocca a bocca. Infatti, un glaucoma gli fa perdere gradualmente la vista, lasciandolo completamente cieco all'età di 7 anni. La madre lo prepara poco a poco alla cecità, insegnandogli ad arrangiarsi e non dipendere da nessuno. Per spronarlo, gli ripeteva la frase: «Sei cieco, non stupido». Ray Charles Robinson, orgogliosamente, non userà mai un bastone né un cane guida e si rifiuterà di suonare la chitarra, lo strumento classico dei musicisti non vedenti. Però la musica gli piaceva e come. Lo aveva acchiappato quando a 3 anni aveva sentito a Red Wing Café il proprietario, Willie Pickman, suonare un boogie su un vecchio pianoforte verticale. il signor Pittman era un amico della madre e sarà il primo maestro di Ray, al quale insegna qualche piccola melodia da suonare con un solo dito. Nel 1937 la madre riesce a farlo entrare nella scuola per sordi e ciechi St. Augustine in Florida, dove impara Bach, Beethoven e Mozart. Suonare il pianoforte per una persona non vedente è un processo lungo e complicato. Con una mano deve leggere le partiture in Blay e con l'altra suonare, poi deve invertire le mani e infine combinare le parti e suonarle insieme con entrambe le mani. Nella scuola ci resterà fino al 45, un anno tristissimo, nel quale subirà un altro shock, la morte della madre. Si trasferisce a Jacksonville dalla famiglia Thompson, degli amici materni che lo trattano come un figlio. Rimane con loro per un anno, suonando in piccole band locali. Poi prova fortuna con la musica a Orlando e Tampa, dove suona anche in un gruppo illibilli, i Florida Playboys. Nel 1947 decide di trasferirsi a Seattle e mettersi in proprio. Lo stile è molto pacato e devoto a Nat King Cole, ma presto capisce che quella non è la strada giusta. Si accorcia il nome in Ray Charles perché quelli erano gli anni del leggendario Sugar Ray Robinson, uno dei pugili più grandi di tutti i tempi. Nel 1948 forma il suo primo gruppo, il Maxon Trio, che ottiene un discreto successo per l'etichetta Swing Time, con questa Baby Let Me Hold Your Hand. Va in tournée per quasi un anno con Lowell Fulson e la sua band. Con i musicisti di Fulson scoprirà l'eroina, che sarà sua compagna per oltre 16 anni. Dopo il tour, la sua musica attraversa un processo di trasformazione. Il suo stile si fa più personale e meno legato a King Cole. Si avvicina al jam blues di Louis Jordan e Big Joe Turner. Suona con Ruth Brown, poi va a New Orleans, dove dà il suo contributo al piano nel classico di Gita Slim, The Thing That Used To Do. Nel 52, la Swing Time, sull'orlo del fallimento, vende il suo contratto all'Atlantic per $200. Sarà l'affare del secolo per l'etichetta discografica di punta del nuovo rhythm and blues. A Ray viene concesso un'insolita libertà. Ertegun e Abramson non interferiscono in alcun modo nelle scelte del musicista. Sanno di avere fra le mani un genio. Le prime session, come spesso accade, non producono nulla di buono. Poi la scintilla. Ray prende un brano scritto da Ertegun e ne tira fuori un indiavolato piano boogie. Questa è Mess Around. Lui, Ray Charles. Ah, you can talk about the pit, barbecue. The band was jumping, the people too. Ah, mess around. They're doing the mess around. They're doing the mess around. Everybody doing the mess around. Ah, everybody was juiced. You can bet your soul. They did the boogie woogie with a sturdy roll. They mess around. They're doing the mess around. They're doing the mess around. Everybody doing the mess around. When I say stop, don't you move a peg. When I say go, just shake your leg and do the mess around. I declare, do the mess around. Yeah, do the mess around. Everybody's doing the mess around. Now let me have it there, boy. Mess around. play from 9 to 1. Everybody here is gonna have some fun doing the mess around. Ah, doing the mess around. They're doing the mess around. Everybody doing the mess around. Now you see that girl with that diamond ring. She knows how to shake that thing. Mess around. I declare she can mess around. Ah, mess around. Everybody do the mess around. Train I ride, 16 coaches long. Herman Junior Parker è uno dei personaggi più esuberanti e chiassosi del blues. Black train, carry my baby home. Nato nel profondo sud del Mississippi, negli anni 40 va nell'Arkansas. Lavora con Howlin' Wolf e Sonny Boy Williamson, dal quale impara i segreti dell'armonica. Nei primi mesi del 50 è a Memphis, nei mitici Bill Streeters, con B.B. King, Bobby Bland e Roscoe Gordon. Nel 51 forma i Blue Flames con il chitarrista Auburn Pat Air. Vengono scoperti, come no, da Ike Turner, che fa registrare loro qualcosa per la Modern. Nel 1953 passano alla Sun, dove registro un ottimo trittico di canzoni. Love My Baby e Mystery Train, che diventeranno due classici del rockabilly, e questa Feeling Good, dove risalta la voce calda di Junior Parker. Loro sono Little Junior and the Blue Flames e questa è la loro risposta made in Memphis al boogie di John Lee Hooker, Feeling Good. Walking down the street, I met a friend of mine, and we stopped and get a little something to eat. When I got to him, I said, "Say, man, look here." He said, "Yeah, Junior, what's happening?" I told him, "Well, I feel so good. We're gonna boogie till the break of day." I said, "Look here." He said, "What is it?" "Well, the old folks boogie. And the children too. No, nobody boogie like me and you. We're gonna boogie. We're gonna boogie till the break of day." Now you know, last night I was laying down. I heard Mama and Papa talking. I heard Papa tell Mama. And then I heard Mama got up and she told Papa. Well, Mama told Papa about something she heard. I said, "Look here, Mama, don't believe a word. We're gonna boogie. We're gonna boogie till the break of day. Oh, now let's boogie. Get it." Me and my friend went on down the street, little fella. And when I got down, I told him, I said, "Look here." He said, "What?" I said, "I got one more thing to tell you." He said, "What is happening? What's happening?" "Well, I feel so good. We're gonna boogie till the break of day." I said, "Look here, let me tell you this before I go." He said, "Wait, where you going?" I said, "I got to go." He said, "What's happening?" "We got an old time boogie and a new one too. Don't nobody boogie like the Blue Flames do. We're gonna boogie. We're gonna boogie. boogie, don't break me. You want a boogie? You want a boogie? Just staring into space. Oh, has got a word to say. In un concerto al Club Berlin si esibiscono i Dominos, il famoso gruppo vocale di Billy Ward. Got a word to say. Fra il pubblico si trova Ahmet Ertegun, il fondatore dell'etichetta newyorkese Atlantic. Il turco è fan del cantante Clyde McFadden, ma sul palco non c'è. Apprende nel backstage che se n'è andato fondamentalmente perché Ward è un tiranno. Si sfrega le mani, lo contatta e lo firma per la sua etichetta. Gli viene data carta bianca per formare un gruppo. Ci prova con degli amici che cantavano con lui in chiesa, i Motley Bannon Singer. Il gruppo si chiama Drifters e registra questa Lucille nel luglio del 53, ma non funziona. Pochi mesi dopo fa tabula rasa. Entrano due esperti cantanti gospel, i fratelli Thrasher, Gerard Tenore e Andrew Baritono, il basso Willie Ferbee, il tenore Bill Pinkney e la chitarra elettrica di Walter Adams. Il 9 agosto del 53 registrano Money Honey, numero 1 rhythm and blues che resterà in classifica per 23 settimane e venderà nel corso degli anni più di 2 milioni di copie. Il successo darà un po' la testa a McFadden, che convinto di essere la risposta nera Sinatra o il nuovo Nat King Cole, lascerà il gruppo per buttarsi in solitario nel mercato pop, dove si muovevano i soldi veri. I Drifters continueranno con innumerevoli formazioni per oltre 60 anni, con cantanti come Johnny Moore e Benny King. Questi sono i Drifters originali, con il loro brano più celebre, Money Honey! To tell me what was on his mind. He said, "Money, honey, yes, money, honey, money, honey. If you wanna stay here with me, I was clean as a screen and so hard pressed. I called the woman that I love the best. I finally got my baby by the hand." To know what you want with me, I said, "Money, honey, money, honey, money, honey. If you wanna get along with me," she screamed and said, "What's wrong with you? From this day on, our romance is through." I said, "Tell me, baby, face to face, how?" Another man take my place. Said, "Money, honey, money, honey, oh, money, honey. If you wanna get along with me, yeah." Hey. Per me? Cioccolato bianco? È una cagata pazzesca! Chiamavano la cantante con una lacrima nella voce, ma quella lacrima l'aveva nel cuore. Eppure l'avevano trattata bene, si erano presi cura di lei come fosse una di famiglia. Quando Ahmet Ertegun e Er Abramson la invitarono a New York, ebbe quel terribile incidente. Stava andando alla firma del contratto con annessa esibizione all'Apollo, il tempio del rhythm and blues, quando a Chester, in Pennsylvania, ebbe un incidente automobilistico che le spezzò le gambe. Rimase in ospedale 9 mesi, dove firmò il contratto con la sua nuova etichetta discografica, la Atlantic. Le pagarono addirittura le spese mediche e i tutori che fu costretta a portare, ma lei li ricompensò a dovere fin da subito con questa So Long, il primo di una lunga serie di successi che in 10 anni diede loro 24 hit. Infatti, la Atlantic è nota come la casa costruita da Ruth. Even though we're far apart, I will keep you right here in my heart. So long, so long. Quando all'inizio dei 60 The Queen of Rhythm and Blues lascia la casa discografica, si vede presentare un conto di $30,000 per spese di produzione e registrazione. L'avevano fregata. Ostia se l'avevano fregata. Non percepiva alcuna royalty. Le davano $69 per brano e finita lì. E poi andava bene, c'era anche chi prendeva molto meno. Per mantenere i 2 figli fu costretta a fare la domestica, l'assistente per gli anziani o guidare l'autobus. Provò a chiedere aiuto a Ertegun, che le diede un assegno da $1,000. Briciole, anche perché, come diceva lei, per ogni Picasso che aveva appeso al muro, io avevo una macchia di umidità. La vendetta, però, è un piatto che si serve freddo. Nel 1975, un suo vecchio amico, Red Fox, le fa fare una comparsata nella mitica sitcom Sanford and Son, dove Fox interpreta il vecchio burbero Fred. Sempre in sua compagnia, veste i panni di Mahalia Jackson nel musical Selma. Sarà il suo lancio definitivo nel mondo dello spettacolo. Raggiunta finalmente la tranquillità economica, può dedicarsi a quel conto in sospeso con l'Atlantic. Tramite un avvocato che è un suo fan sfegatato, Ruth Brown farà giustizia per se stessa e per tanti altri artisti afroamericani pagati ingiustamente per le loro registrazioni. Fonda la Rhythm and Blues Foundation, un'associazione senza scopo di lucro che si dedica a sostenere con sovvenzioni e programmi di ogni tipo gli artisti di colore. La sentenza del tribunale condanna l'Atlantic a pagare alla Brown $20,000 in royalties e versare $1,500,000 alla sua fondazione. Soldini che verranno distribuiti ai tanti afroamericani truffati da sempre dai lestri produttori bianchi. Seguendo l'esempio, altre case discografiche laveranno la loro immagine a base di donazioni milionarie all'organizzazione della Brown. Nel 1953 registra la sua canzone più famosa, che fa fede al soprannome che diede di Frankie Lane, Miss Rhythm. Il pezzo sarà numero 1 rhythm and blues e raggiungerà la 23esima posizione nella classifica pop. Questa è l'energica Mama, it is your daughter mean, Ruth Brown. Mama, it's your daughter. piccolo, Eddie Jones vive con la nonna. La madre era morta e il padre, come spesso accadeva, mai visto. Raccoglie cotone e la sera si guadagna qualche moneta come ballerino in uno dei juke joint di Greenwood, giù nel profondo Mississippi. I juke joint sono quelle baracche gestite dagli afroamericani dove i lavoratori si riunivano per dimenticare la tristezza delle loro esistenze, giocando a carte con distillati di infima qualità o ascoltando e ballando al ritmo della musica. Questo circuito di locali sarà di importanza fondamentale per lo sviluppo e la diffusione del blues. Da qui sono passati tutti i primi maestri del genere. Qui sono nate le leggende e i soprannomi mitici. Il nostro ragazzo ha la stoffa dello showman, canta e balla come nessuno e si guadagna l'appellativo di Lumberjack, gamba agile. Negli anni 40 suona la chitarra nella band di Willie Warren. Le influenze sono chiare: T-Bone Walker, Robert Nightwood e Clarence Gayton Brown. Dopo la guerra va a New Orleans, dove perfeziona il suo personaggio. Sul palco è un alieno. Si presenta in scena con abiti sgargianti rosso, blu o verde, con capelli rigorosamente in tinta. Grazie a un cavo di oltre 100 metri, esce dal locale per suonare in strada, oppure sulle spalle di un assistente alla mo' di torero. La sua sperimentazione e l'utilizzo di armonici fortemente distorti lo faranno diventare un'influenza basilare per i tanti chitarristi che verranno, Jimi Hendrix compreso. Nel gennaio del 54 registra con Ray Charles al piano un numero uno rhythm and blues per 6 settimane, un temazzo da 1 milione di copie, The Thing That I Used To Do. Lui è Guitar Slim. The thing that I used to do, Lord, I won't do no more. The thing that I used to do, Lord, I won't do no more. Search all night for you, baby. Lord, in my search would always end in vain. I would search all night for you, baby. Lord, in my search would always end in vain. All alone, darling, that you was hit out with your other man. Back to your mother, baby. Lord, and I'm going back to my family too. I'm going to send you back to your mother, baby. Lord, and I'm going back to my family too. Nothing I do that please you, baby. Lord, I just can't get along with you. I want you to love me. Love your baby slow. Nel 1893, durante i 5 mesi che durò l'esposizione universale di Chicago, fece scalpore e gonfiare la parte anteriore dei pantaloni di parecchi uomini una ballerina vestita da zingara, Little Egypt, che eseguiva una sorta di danza del ventre con esagerati movimenti pelvici. Un successone! Il ballo venne esportato in buona parte degli States e da lì a qualche anno si trasformerà nello striptease. Questa danza, estremamente provocante, era popolarmente conosciuta come Uchi Kuchi Dance. Queste due parole, con forti connotazioni sessuali, vengono dallo slang del sud. Uch è l'alcol di contrabbando distillato illegalmente, mentre Kuchi si riferisce ai genitali femminili. Ma le parole Uchi Kuchi hanno anche forti legami con l'udu, una pratica che mischia magia e medicina per questioni che riguardano l'amore e la salute, nella quale sono frequenti molte espressioni citate nel blues, come il black cat bone, l'osso di gatto nero che concede l'invisibilità, o il mojo, il talismano utilizzato per avere fortuna con le donne. Nel 1953, Willie Dixon, il factotum della Chess che possiamo tranquillamente considerare come il più grande compositore di blues del dopoguerra, presenta a Muddy Waters una sua nuova composizione. Lo fa durante una pausa di un concerto nel bagno dello Zanzibar, un locale di Chicago dove si esibiva regolarmente con la sua straordinaria band. Muddy è entusiasta del pezzo, anche perché la canzone sembra scritta apposta per lui. Infatti Waters è proprio un Uchi Kuchi man, un donnaiolo, un uomo sessualmente attraente e ben dotato. Il brano, con un ritmo ripetitivo e un testo legato al mondo dell'udu, ripresenta la formula dello stop time, il tempo d'arresto che era già stato utilizzato dalla coppiata Waters-Dixon nella precedente Mad Love. Questa trovata, che viene dal jazz di New Orleans, consente di suonare una frase strumentale o vocale, come in questo caso, sopra un breve silenzio, contribuendo ad aumentare la tensione emotiva del pezzo. Il brano, registrato nel gennaio del 54, combina molti aspetti della cultura afroamericana, il blues, il jazz di New Orleans e l'udù, con zingari, profezie e superstizione. Questo temazzo sarà uno dei più rappresentativi della fantastica carriera di Muddy Waters, il vero Uchi Kuchi Man. The gypsy woman told my mother before I was born, you got a boy child coming, he gonna be a son of a gun. He gonna make pretty women jump and shout. Then the world wanna know what this all about. But you know I'm here. Everybody knows I'm here. I got a black cat bone, I got a mojo too, I got a John the Conqueror, I got to mess with you. I'm gonna make you girls lead me by my hand, then the world will know I'm a hoochie coochie man. But you know I'm here. On the 7 hours, on the 7 days, on the 7 months, the 7 doctors say he we were born for good luck, and that you see. I got $700. Don't you mess with me, but you know. Era impazzito al primo ascolto di 60 Minute Man e si era promesso di fare qualcosa del genere o addirittura andare oltre. Nel 53 si unisce ai Royals, un gruppo vocale di Detroit scoperto da Johnny Otis. Ne diventa leader, voce principale e li fa entrare in classifica con questa Get It, un piccolo successo rhythm and blues. Per evitare confusione con i ben più famosi Five Royals, decidi di cambiarne il nome in Midnighters, indurire un po' il sound e metterci del piccante nei testi, come aveva fatto Billy Ward qualche anno prima. Nel gennaio del 54, registra una canzone con forti contenuti sessuali e doppi sensi espliciti fin dal titolo, Work With Me, Henny. Fallo con me, Henny. Interviene la Commissione federale per la comunicazione per farla censurare, visto che poteva essere ascoltata da adolescenti bianchi, ma il tentativo fallisce. Però il clamore suscitato si trasforma in una pubblicità che la fa schizzare al numero uno per 7 settimane nella classifica Rhythm and Blues e raggiungere il top 20 in quella pop. La canzone avrà dei sequel di successo come Annie Had a Baby e Annie Aunt Fanny, è una celebre risposta di Etta James. Con un pianoforte boogie, il basso in evidenza, i cori onomatopeici e la voce alla Clyde McFarlane di Hank Ballard, questa è la arrapante Work With Me, Henny. Ahum, ahum. Work with me, Annie. Joe Turner non si può parlare di rock and roll. Con una carriera discografica che copre quasi mezzo secolo, è un personaggio fondamentale per la transizione dal jazz delle big band al jam blues. Fin dagli anni 30, il suo sodalizio con il grande del piano boogie Pete Johnson, durato 13 anni, produrrà pagine fondamentali per lo sviluppo di questa musica, come quel Roll and Pete del 38. Sempre in quell'anno partecipa al leggendario concerto From a Spiritual to Swing, dando vita alla moda del boogie woogie. Verso la fine degli anni 40, però i suoi dischi non vendono molto bene. Poi il colpo di fortuna nel 51. Una sera, al Teatro Apollo, i Boys dell'Atlantic vanno ad assistere a un concerto di Basie, la sua orchestra. Scoprono che il conte ha temporaneamente sostituito il grande cantante Jimmy Rushing con Big Joe. Rimangono talmente impressionati che lo firmano immediatamente, rilanciando la carriera del navigato Turner, portandola al massimo splendore, con pezzi come questa TV Mama, con l'incommensurabile Elmore James alla chitarra. Nel febbraio del 54 registra il grande hit Shake, Rattle and Roll, un classico blues di 12 battute dal tempo rapido. Perfetto esempio di rhythm and blues adattato al gusto dei bianchi, con un ritmo ballabile e un testo con velate allusioni sessuali. Il brano, che sarà numero uno rhythm and blues e raggiungerà il 22° posto in quella pop, è scritto appositamente per Turner dal prolifico compositore e arrangiatore dell'Atlantic, Jesse Stone. La canzone riesce a schivare la censura, nonostante il testo contenga molte sfumature sessuali, con strofe come la geniale «Sono come un gatto con un occhio solo, sbirciando in un negozio di frutti di mare». E allora, shake rather than roll! I'm